sulle grandi spiagge con gli ombrelloni un po' sbiaditi, che dopo un'estate al sole sono già vecchi e ramolliti. Au revoir ai grandi tuffi fatti nel vuoto per un amore, che quando sei giù nel fondo anche la sabbia ti può far male. Au revoir ai grandi fuochi accesi attorno a una patata, quasi sempre cotta a punto, che quando la in bocca sembra una pietra. Au revoir le notti in spiaggia fatte dal suono di una chitarra, tutti all'alba infreddoliti, gli occhi inchiodati ad una stella. Au revoir mia dolce bella signorita, I don't know my little baby, I don't know, I don't know. Au revoir mia dolce bella signorita, vado per le vie del mondo, il cuore in gola a cercar fortuna. Au revoir gli occhi bendati, ammutoliti di una dea accecata, che se non te muovi adesso, ma in questo posto ce se fa una vita. Au revoir le scalinate a lavanda Osiris di Piazza di Spagna, dove spine e violoncello fanno la corte a un sogno di panna. Au revoir a pezzi a piedi da San Giovanni al Mandrione, dove l'acqua manca sempre e la luce ancora deve arrivare. Au revoir al conduttore di un vecchio tram del Risorgimento, dove quando è brutto tempo non c'è mai un posto al riparo dal vento. Au revoir mia dolce bella signorita, I don't know my little baby, I don't know, I don't know. Au revoir mia dolce bella signorita, vado per le vie del mondo, il cuore in gola a cercar fortuna. I don't know. Dolce bella signorita, vado per le vie del mondo, il cuore in gola a cercare fortuna. Per le vie del mondo, il cuore in gola a cercar fortuna.